Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti da parte mia, anche da parte di Mauro De Angeli che mi assiste questa mattina in regia. Come sapete, la domenica, da qualche domenica, è anche il giorno in cui il Sole 24 Ore vi propone un libro di racconti d'autore. Ci sono stati i racconti di Hemingway nelle domeniche scorse, ci sarà domenica prossima uno dei racconti più famosi del mondo, cioè La metamorfosi di Kafka. Questa domenica vi proponiamo una raccolta di John Fante. John Fante è uno scrittore, era purtroppo uno scrittore americano, figlio però di italiani, era figlio infatti di un signore che era nato in provincia di Chieti e di una italiana nata invece già negli Stati Uniti, nata a Chicago, ma ovviamente da genitori italiani. John Thomas Fante, questo era il suo nome completo, ha avuto una vita un po' burrascosa, come un po' si addiceva anche agli scrittori di una certa epoca. Ha lasciato la famiglia abbastanza giovane, era nato nel 1909 e già nel 1930 era a Los Angeles, dove cercava un po' di fare fortuna scrivendo, collaborando a riviste, eccetera. Non è un autore, ripeto, conosciutissimo in Italia, però i suoi romanzi sono molto belli. Bukowski lo considerava il miglior scrittore che lui avesse mai letto, e con una definizione un po' strana da capire diceva che Fante era il narratore più maledetto d'America, che detto da Bukowski, insomma, che era un tizio certo non dai toni, come dire, pacati, fa effetto. Fante, il libro più famoso di John Fante, se volete approfondire, è Chiedi alla polvere, considerato uno dei suoi libri più famosi, ma anche i racconti che vi proponiamo oggi già sono un bel modo di avvicinare questo scrittore. Sentite come comincia Rapimento in famiglia, che poi dà il titolo alla raccolta. Comincia in questo modo: c'era un vecchio baule nella camera da letto di mamma. Era il più vecchio baule che avessi mai visto, uno di quelli col coperchio arrotondato come la pancia di un ciccione. Ficcata dentro questo baule, sotto la biancheria del corredo che non si usava mai, appunto perché era il corredo, sotto l'argenteria che non si usava mai perché era un regalo di nozze, sotto ogni sorta di nastri fantasia, bottoni, certificati di nascita, sotto tutto questo c'era una scatola con le foto di famiglia. Mamma non permetteva a nessuno di aprire il baule e teneva nascosta la chiave, ma io un giorno la trovai nascosta sotto lo zerbino. Da questo ritrovamento di questa chiave poi John Fante spiega, va alla ricerca, come dire, delle origini della sua famiglia, all'incontro dei suoi genitori. È un incontro che non vi voglio raccontare perché ve lo sciuperei. Vi rimando all'edicola con John Fante, Rapimento di famiglia e altri racconti, oggi, solo oggi, in vendita con il Sole 24 Ore. E credo che si sia capito che John Fante mi piace molto, forse dall'entusiasmo con cui ve l'ho descritto, anche Mauro De Angeli dall'altra parte del vetro e così anche Luca Rinaldi mentre preparavamo questa puntata mi diceva se ho una passione per questo scrittore. La risposta è sì, mi piace molto, mi piace moltissimo, trovo che sia veramente molto bravo. Passiamo, restiamo anzi in ambito gradevole, in ambito di cose gradevoli, voglio parlarvi di vacanze. Due spunti, uno da Vanity Fair, che è uno spunto molto gradevole perché secondo il sondaggio, sapete che Vanity Fair ha sempre un sondaggio ogni settimana, che appunto questo è affidato a Nando Pagnoncelli all'Ipsos, e hanno chiesto questa volta se faranno le italiane più che gli italiani in genere qualche dieta in vista delle vacanze estive, della prova costume, quindi sacrifici pur di potersi presentare a modo in spiaggia. Ecco, la risposta, che tutto sommato è confortante, è no. Nella stragrande maggioranza dei casi, cioè per il 74% dei casi delle persone interpellate, o ritengono di non averne bisogno oppure hanno risposto serenamente no, mi piaccio anche con qualche chilo in più. Solo il 19% ha detto sì, farò una dieta, tra l'altro la grande maggioranza ha detto una dieta molto leggera, senza grandi rinunce, e una percentuale davvero davvero bassa, il 3%, ha detto sì, farò una dieta molto forte, molto robusta. Il 7% non ha risposto del tutto, il che però fa pensare che non abbia una grande voglia di pensare a una dieta appunto in vista delle vacanze. Tra l'altro, secondo un'altra domanda, hanno chiesto cosa pensa delle diete miracolose, il 53% delle persone interpellate hanno risposto: questo tipo di regimi dietetici miracolosi che promettono appunto risultati strabilianti in pochissimo tempo, bene, andrebbero vietati se sono troppo radicali, senza controllo medico. Per più di un italiano su due, secondo il sondaggio presentato da Vanity Fair questa settimana, questo tipo di diete andrebbe proprio vietato, andrebbero fatte solo sotto controllo medico. Un italiano su tre, il 32%, ha detto vabbè, insomma, ognuno poi è libero di decidere cosa mangiare e che dieta seguire. E di vacanze si occupa anche Famiglia Cristiana che appunto in previsione dell'estate comincia a interrogarsi sulle vacanze. Il lavoro che viene presentato è a più mani: Renata Maderna, Rosanna Precchia, Orsola Vetri, e si parla di vacanze e anche di vacanze con figli. Per chi ha figli, appunto, per chi sta in famiglia, le vacanze sono anche un momento spesso di difficili compromessi tra quello che vorrebbero i più giovani componenti del nucleo familiare e quello che magari desiderano i genitori. C'è una chiacchierata con Gioacchino Lavanco, che è un docente di psicologia di comunità alla Università di Palermo, e che consiglia di fare una vacanza ideale povera di spesa e ricca di relazione, cioè magari spendere qualcosa meno ma investire proprio sul tempo libero, cioè sul tempo della vacanza. Spiega appunto Lavanco in questo articolo che trovate su Famiglia Cristiana che c'è ormai lo stress da vacanza, perché non la si considera più un momento per prendersi del tempo per rallentare i ritmi, ma invece una situazione super organizzata, quindi un tour de force in cui se si perde un aereo ci si mette a piangere perché salta tutta l'organizzazione. Poi ci sono le vacanze come fuga, come ricerca del luogo esotico, dell'azione estrema, ciò che non si è mai fatto, non si potrà mai più fare, e vacanze che sono appunto molto onerose, magari troppo onerose per un nucleo familiare. Allora invece consiglia il professore dalle pagine di Famiglia Cristiana: cerchiamo invece di avere un investimento forte sulle relazioni, sul confronto, sul rallentare i tempi. Né stress né fuga, invece cerchiamo di prenderci i nostri tempi, i tempi appunto dei genitori, ma anche quelli dei figli. Secondo qualche numero che completa questo lavoro di Famiglia Cristiana sulle vacanze, il 49% di noi partirà per le vacanze quest'estate, quindi siamo già sotto la metà degli italiani. L'anno scorso erano il 56%. Il 31% di chi va in vacanza mette in valigia un vestito elegante, il 42% si preoccupa di non dimenticare le medicine, il 33% non si deve scordare un libro. E poi i compagni di vacanza. Dice sempre il professor Lavanco: è un errore cercare il compagno più matto, il più divertente, è importante piuttosto trovare chi ci permetta di usare il nostro tempo come vogliamo e capace di rispettare i nostri ritmi. Il compagno di vacanza ideale, insomma, è quello da cui ci si può separare, a cui si può dire cosa si preferisce senza che si creino problemi o attriti. Non si crea neanche un attrito in questi cambi di tonalità di John Coltrane e nella sua Giant Steps, passi da gigante. Tra l'altro, chi si intende di jazz spiega che questi passi da gigante sono proprio questi salti che lui crea tra una tonalità e l'altra e che poi proseguono con le sue variazioni al sax per tutta la canzone. Vi facciamo ascoltare questo assaggio di Coltrane perché in questi giorni è in edicola il cofanetto della collana dei miti del jazz dedicato appunto al sax di John Coltrane. Ieri, se avete potuto seguire Magazine 24, sapete che abbiamo mandato un assaggio di Blue Train. Oggi abbiamo scelto questo passi da gigante che è considerato, tra l'altro, nella storia del jazz una sorta di momento di svolta, perché da qui poi cominciano tutta una serie di sperimentazioni. Coltrane in qualche modo apre una strada, contribuisce ad aprire una strada. Magari mettiamone, Mauro, ancora un pezzetto, dai. Hey! bene, allora prima di lasciare la linea alle informazioni sul traffico, vi voglio dare una piccola anticipazione, perché Panorama presenta una curiosa classifica. Cosa ci facciamo con questi nuovi oggetti tecnologici che accompagnano la nostra vita, appunto l'iPad, l'e-reader, lo smartphone, cioè questi telefoni super intelligenti, super accessoriati, e naturalmente ci facciamo un po' di tutto, ma una forse delle scoperte più sorprendenti è che l'iPad è usatissimo guardando la TV, cioè uno accende la televisione per poi in realtà guarda l'iPad. Questo succederebbe, secondo uno studio della Nielsen, nel 30% dei possessori di questi oggetti. E poi naturalmente altri dati un po' più comprensibili: il fatto che si usi durante lo shopping, anche per orientarsi, e poi l'utilizzo a letto. Qui l'e-reader, cioè questi supporti che consentono di leggere i libri, è utilizzato dal 37% di chi ha iPad, e-reader o lo smartphone, appunto. Tutte queste diavolerie tecnologiche che entrano sempre di più nella nostra vita. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi stavamo leggendo appunto questa curiosa classifica da Panorama che ci facciamo con queste diavolerie tecnologiche che accompagnano, che segnano la nostra vita, l'iPad piuttosto che l'e-reader, cioè queste tavolette che consentono di leggere libri in formato digitale, o il telefono smartphone, quello appunto super intelligente, in grado di connettersi alla rete e insomma di fare altre cose, video, foto, eccetera. Non sorprendentemente abbiamo imparato ad usarli anche in bagno, riferisce appunto questa ricerca Nielsen citata da Panorama, e lì pare che non deve essere naturalmente un giudizio di valore né una battuta di cattivo gusto, l'iPad sia uno degli strumenti più utilizzati appunto per passare un po' il tempo. Sempre su Panorama una cosa divertente: i divieti dal mondo, fanno parte, una piccola raccolta che fa parte di un articolo che accompagna un articolo di Mattia Ferraresi dedicato a New York è in una svolta proibizionista vera. Stanno limitando l'assunzione di calorie da parte dei cittadini, è vietato fumare nei locali pubblici, nei parchi, sulle spiagge, nelle isole pedonali, persino ai tavolini dei bar. C'è stata anche una campagna per proibire, per limitare, diciamo, i grassi nelle cucine dei ristoranti. È vietato suonare adesso anche nel luogo, appunto nel memoriale di John Lennon a Central Park, uno degli ultimi divieti introdotti dal sindaco di New York Michael Bloomberg. Ma ci sono divieti un po' strampalati in giro per il mondo, in Italia e non solo. Ad esempio c'è una città in California dove è vietato indossare in pubblico stivali da cowboy, e gli unici che possono farlo sono coloro che possiedono almeno due mucche. Mi chiedo se poi debbano circolare con una sorta di certificazione per dimostrare il possesso appunto delle due mucche. O c'è un posto nel New Hampshire dove hanno pensato bene di proibire la possibilità di fare picnic o di consumare alcolici nei cimiteri. Inoltre nei cimiteri non sono ammessi i bambini sotto i 10 anni. Però anche in Italia insomma abbiamo una certa fantasia. In provincia di Venezia c'è un paese, Eraclea, dove è vietato costruire castelli di sabbia sul litorale, il che forse è un po' contraddittorio per una località di mare, ma ci saranno senz'altro degli ottimi motivi. A Venezia, questo è più comprensibile, è vietato dar da mangiare ai piccioni. Beh, se siete mai stati a Venezia in piazza San Marco non è difficile capire perché, ce ne sono davvero una quantità enorme. Però è anche vietato trasportare merci in borsoni o grandi sacchi in plastica, questo naturalmente anche per prevenire la caduta in acqua. Come sapete poi la plastica, avendo la dote di essere eterna, finendo in acqua genera un bel po' di problemi. Però nel nostro piccolo anche noi abbiamo il nostro divieto newyorkese. A Bolzano, proprio come a Central Park, è vietato fumare nei parchi pubblici. Poi ci sono altre curiosità: a Vicenza è proibito sedersi su alcune panchine se non avete più di 70 anni. Ci sono delle panchine riservate appunto alle persone che hanno più di 70 anni. Altri comuni balneari, non uno ma più di uno, hanno ad esempio vietato ai pedoni di muoversi per strada a torso nudo. Questo è più comprensibile, e anche avvicinandosi, come dire, la stagione calda alla stagione estiva. Allora, parlavamo di comuni balneari. C'è una bella cartina su Geo, sul mensile Geo, che fa riflettere su qualcosa a cui magari non si pensa spesso. Quanto conta oggi per uno Stato avere uno sbocco sul mare? Cioè, cambia, fa la differenza. Uno potrebbe pensare che nell'era dell'economia digitale ormai avere o non avere uno sbocco sul mare conti molto relativamente. Non è proprio così. Tra l'altro viene presentato un planisfero in cui vengono isolati gli stati che non hanno sbocco sul mare in tutto il mondo, e si scopre che il 70% degli stati che sono in questa condizione sono poi paesi sottosviluppati. Spiegano appunto che hanno fatto questa cartina per mostrare, per far affacciare almeno una volta questi stati sull'oceano, e hanno sommerso quindi tutti gli altri stati che hanno uno sbocco. Ci sono 44 paesi in tutto il mondo che non hanno sbocco sul mare, 30 sono paesi in via di sviluppo, 16 di questi, ricorda Geo, sono alcuni dei più poveri al mondo. Soprattutto per questi ultimi la mancanza di sbocchi sul mare rappresenta un ostacolo all'economia, perché se poi non c'è un'efficiente rete stradale e ferroviaria, gli esportatori di queste nazioni hanno naturalmente difficoltà a raggiungere i porti dei paesi confinanti. Poi ci sono i dazi, i tempi di attesa, le lungaggini burocratiche ai confini, e quindi secondo un rapporto dell'ONU i trasporti da uno stato privo di litorale fino a una città portuale all'estero costano in media $2,000 in più a parità di chilometri percorsi. Questo fa sì che la merce poi non risulti competitiva. L'Uzbekistan è uno degli unici due stati, uno dei due stati in tutto il mondo che è separato addirittura da due confini rispetto a un oceano o a un mare. L'altro stato è Liechtenstein, uno stato che vive, l'Uzbekistan, di esportazione di oro, gas e cotone, ma questa distanza appunto dal mare complica, aumenta il costo delle sue esportazioni. E sempre su Geo, anche se non abbiamo probabilmente il tempo di approfondirlo, una bella storia di esploratori, Amundsen e Nobile, una storia degli anni 30. Dovete sapere che quando Umberto Nobile, grande esploratore italiano, si trovò in difficoltà al Polo Nord, precipitò appunto con il suo dirigibile Italia, Amundsen, che peraltro detestava, anzi probabilmente proprio odiava Nobile, anche perché gli rubava la scena, tra gli esploratori dell'epoca, Amundsen andò a cercarlo e Umberto Nobile venne poi salvato, non da Amundsen, che invece perse la vita proprio in questa missione. La storia viene raccontata da Geo tra l'altro viene raccontata perché c'è una spedizione che sta cercando di trovare almeno una traccia dell'aereo che portava Amundsen verso il Polo Nord alla ricerca del colonnello Nobile. Non si è mai trovato nulla, Amundsen è in qualche modo sparito, scomparso nel mistero, e ancora oggi appunto i norvegesi e gli scienziati un po' di tutto il mondo provano a mettere insieme le poche conoscenze che si hanno di questa sua ultima trasvolata per trovare qualcosa, qualche testimonianza tangibile della sua scomparsa. E allora abbiamo ancora un minuto, mi facendo Mauro dall'altra parte, un minuto per dirvi che su Focus Storia ho scoperto perché si dice gota, si dice il gota di qualcosa, il gota del calcio, il gota del giornalismo, eccetera eccetera. Allora, Gota è il nome di una città tedesca della Turingia che dal 1763 fino al 1944 pubblicò un almanacco che si chiamava appunto Almanacco di Gota. Conteneva l'elenco genealogico delle case regnanti e delle più importanti famiglie aristocratiche d'Europa. Poi ci inserirono man mano nelle varie edizioni gli ordini cavallereschi, anche dei dati statistici su tutti i paesi del mondo e articoli vari. Nel 1944, con l'arrivo dell'esercito sovietico, vennero distrutti gli archivi di Gotha e l'almanacco scomparve. Essere citati naturalmente in questo almanacco era un segno di rango sociale molto elevato, bisognava essere un re o comunque un aristocratico molto importante, e quindi da lì poi è venuto l'uso di dire Gotha per definire un'elite di persone influenti, delle persone più influenti di un determinato settore. E con questa ultima citazione, con questa davvero puntura di spillo che ho preso da Focus Storia, io vi saluto, vi auguro buona domenica. Vi ricordo che potete sempre riascoltare questa puntata o tutti i programmi di Radio 24 sul nostro sito www.radio24.it. Se volete scriverci, magazine24@radio24.it. Buona domenica a tutti.